Hai presente gli Eco Days Ford? Giulia, è un mese che lo ripetiamo. Ford raddoppia la rottamazione statale. Ora anche su Kuga. Ah, sì? Sì, e su Kuga plug-in hybrid hai 10.000 euro di eco incentivi. E tu come lo sai? Ah, già. Ford.it. Uno sconto così? Non te l'aspettavi, eh? Dal 21 al 25 febbraio arrivano i Club Days a MacArthur Glen alla Reggia Designer Outlet. Meno 20% extra sui saldi di articoli selezionati. Solo per gli iscritti al MacArthur Glen Club. Registrati ora e risparmia la grande. Ti aspettiamo alla Reggia Designer Outlet. Runtime Radio presenta Michela De Paola in Paucracy, animali rivoluzionari. Ciao, io sono Michela De Paola e questa è Paucracy, animali rivoluzionari. Prima di iniziare con questo episodio vi ricordo che Paucracy fa parte di un progetto più ampio chiamato Runtime Radio, la radio geek. Se volete scoprire quello che facciamo, basta andare su www.runtimeradio.it o su spreaker.com/user/runtime. Se volete contribuire al grande sforzo produttivo e creativo del nostro network, basta andare su runtimeradio.it/anch'io. Per quanto riguarda questo programma, ci trovate su spreaker.com/show/pocracy e su tutti gli aggregatori podcast principali, da iTunes a Spotify. Per ora, per contattarci, potete scriverci a pocracypodcast@gmail.com. Ma veniamo all'episodio. In questa puntata, grazie al contributo prezioso di Marina Grossi, vi guidiamo alla scoperta di un meraviglioso animale rivoluzionario, il negro Matapacos. Io nella mia vita ho incontrato alcuni Matapacos che porto nel cuore e grazie a questo racconto e alla storia di questo eroe della rivoluzione ho potuto sognare per loro un finale degno dove potersi ritrovare lontani da una vita passata ad aspettare dentro quel box. Ascoltiamo insieme l'intervista. Bentornati amici di Paucracy, come vi avevo già accennato abbiamo qui con noi Marina Grossi, dottoressa in tutela e benessere animale, laureata in scienze storiche, iscritta a scienze della comunicazione e cinofila appassionata di neuroscienze, linguaggio e didattica. Vive con i suoi 4 cani nell'entroterra abruzzese, imparando ogni giorno da loro e dai cani che incontra sul territorio. Utilizza questo grande privilegio per elaborare momenti online e in presenza e ci condurrà a lei alla scoperta del cane e del rapporto uomo-cane da un inedito punto di vista. Ben arrivata Marina. Ciao, buon ascolto a tutti. Non so bene come si dice nel podcast, benvenuti. Ma ancora si deve, diciamo così, definire. Che si deve definire un linguaggio podcastiano, poi magari nei tuoi studi ci arriverai e magari ci riferirai insomma, in modo che così ci prepariamo anche noi. Allora, iniziamo con cercando di capire che cosa ti ha colpito tanto da farti parlare di un cane cileno e perché il Cile, perché noi parleremo, appunto poi ce lo racconterai tu, di un cane molto molto molto speciale. Prego. Allora, da come si è sentito nella presentazione, io sono una nerd. Prima di essere cinofila ero nerd, poi come tutte le cinofile, anche tu, studiando altro, mi sono imbattuta in questo meraviglioso mondo e durante il lockdown, dopo il primo momento di totale desolazione, ho detto bene, ci incontriamo online, troverò un manipolo di eroi con cui seguire questa linea rossa che erano i cani sul territorio. Infatti io sono contentissima di essere stata preceduta da Giorgia Amate, sì, perché farò vari rimandi a lei per essere più sintetica che ogni ogni tanto la sintesi non è mia amica. E da lì ho cominciato a raccogliere materiale. Allora, su Passeri Abruzzesi e Cani di Paese, essendo abruzzese, giocavo in casa. Sui cani da villaggio ho cominciato con il Sud America. Mi sono fermata un attimo in una bellissima metropoli che si chiama Concepción, che ha destrutturato le mie stesse idee sulla vita dei cani in metropoli, perché c'erano questi cani con un grosso grado di integrazione con la città, con gli universitari, con i turisti. Cerchiamo mentalmente universitari perché ci servirà questa casella per capire il cane di cui parleremo, anche con i quartieri. E qui torniamo un po' a Giorgio Amato, sì. Se non l'avete ascoltato, sentite la puntata. Se l'avete ascoltata, risentitela. Grazie. Perché, no, vabbè, io contentissima, perché penso che sia una grande risorsa, perché io adesso vi faccio, diciamo, un viaggio dall'alto, mentre Giorgia vi parla proprio di cani che lei vive ogni giorno. E ho cominciato a mappare un mondo che sta scomparendo, soprattutto a Concepción c'è una ricerca interdisciplinare tra geografia, per me sarebbe il sogno in Italia, antropologia ed etologia, su quanto questi cani riuscissero poi ad avere una vita molto di qualità, oltre che di quantità, quindi vivere a lungo e vivere bene, cosa che a volte in Italia non crediamo possibile. Mm-hmm. E invece facciamo parte, soprattutto noi del centro-sud, di quella cornice culturale latina, ma questa mi porterebbe lontano. E raccoglievo il materiale e mi ha colpito una foto. Chi mi conosce tramite Facebook sa che il mio cane Red, che poi all'anagrafe lui teoricamente è Black, perché il suo vero nome è Black, è nero, ha le orecchie comunque a bottone, questi occhi molto espressivi, è un suo cugino sudamericano, mi guardava dalle foto. E in più, questo cane, con altri cani che gli somigliavano, poi andremo anche a svelare perché e come, non solo vivevano a Santiago del Cile, ma vivevano in una congiuntura storica molto particolare, come quella del Santiago delle proteste contro comunque una politica ultraliberista. È iniziato tutto con un aumento del prezzo della metropolitana ed è finito comunque in legittime manifestazioni contro la privatizzazione della sanità e dell'istruzione nel 2010. E, tra l'altro, uno di questi studenti è l'attuale presidente del Cile, Gabriel Boric. Quindi diciamo che studiare poi, come al solito, i cani sono sempre un vettore culturale che ci avvicina alle storie delle persone. E quindi poi da lì è nato il videocorso in cui stavo, che stavo intessendo, ma è nato anche il webinar in cui ci siamo un po' confrontate su questo tema io e te. Sì. Gratuito, che faccio una volta al mese per iscritte alla mia newsletter, perché ho adorato questa figura di Negro Matapacos, di questo cane nero che mi somigliava tanto al mio, ma che ha una vita ben più rocambolesca, insomma. E quindi chi è questo Negro Matapacos e perché hai scelto di raccontarcelo e di diffondere la sua storia? Allora, quando ci siamo sentite e quando sono arrivate le tue domande, perché io lo sapevo prima e mi sono preparata, mi sono appuntata a questa citazione di Neil Gaiman, che prima o poi io dovrò imparare a memoria perché la cito spesso, però la parafraso. Credo che sia un dovere che abbiamo gli uni verso gli altri il raccontarci storie. Ora, se fosse il mio cane Red a parlarvi, Black Red, sarebbero anche un po' di fandonie, ma Neil Gaiman intende che abbiamo perso un po' il valore mitopoietico della storia. Metterci attorno a un fuoco è il più anziano che narra, gli Aedi di Omero, ma anche proprio anche le fiabe che ci raccontavano da bambini, perché così si riesce a parlare di un tessuto sociale che esiste, ma anche del mondo che vorremmo. E il Negro Matapacos ha tanti elementi per me interessanti, soprattutto visto che noi viviamo una congiuntura che gli antropologi, ma lo stesso Roberto Marchesini, i filosofi, gli etologi chiamano petizzazione. Ora non vi spaventate, perché dice cosa stiamo dicendo. Semplicemente è che in Occidente noi e gli animali stiamo diventando sempre più domestici. Battiato cantava: l'uomo è l'animale più stupido e domestico che c'è. Perché un po' che purtroppo, non la voglio prendere così pesante, però la domesticazione ci porta a perdere una parte di titolarità e animalità, però ne guadagniamo in sicurezza, lunghezza della vita, agi. Io vivo con una malattia cronica, quindi sono contentissima di vivere nel 2022 con i super farmaci biologici che mi fanno fare una vita normale. Per carità, i miei cani prendono integratori, non è una critica in toto alla vita contemporanea. Però questo cane, che è un cane che ha una famiglia, ma è libero sul territorio, ha relazioni significative, sia proprio del nucleo di appartenenza, ma anche proprio di amici che sono soprattutto universitari, con altri cani, con delle cagnette con cui ha delle relazioni scelte da lui, ha una grossa autonomia decisionale nella partecipazione, nella vita proprio di questi studenti. Lui si inserisce nel panorama, lui fa lo studente, quello diciamo che non si laurerà mai, che tutti abbiamo quello conosciuto. Che incontri quando entri all'università e incontri quando ti laurei e sta sempre là al bar a giocare a carte. Sì, però lui ti insegna tante cose sulla vita. Io l'ho avuto sia a Roma, che era Nunzio, sia qui a Teramo, che era Ottavio, che però poi si è laureato, adesso fa il veterinario. Ci sta sentendo Ottavio, ci hai messo tanto, però sei stato un faro per ognuno di noi. E lui era così, cioè ciondolava per l'università e aveva degli amici, si è fatto una comunità e supportava questa comunità. E quindi mi ha affascinato come figura, perché per noi a volte questo appare impossibile. Cioè, io stessa ho adottato un cane che era libero sul territorio, e che è sempre il solito Red, che fra l'altro è venuto qui e lo sto accarezzando, sentendosi nominare è venuto. E per me è stato un po' uno shock culturale incontrarlo, ma come venire proprio a vivere in campagna, nonostante io sia cresciuta qui. E piano piano però mi sono resa conto che è bello immaginare un mondo, e qui torniamo al perché parlare del nostro Matapacos e perché delle storie, in cui ai cani restituiamo una parte decisionale, che è, quando cominci a pensarla così, complicatissima, perché facciamo fatica ad averla noi. Cercare degli spicchi per gli altri animali è difficile, però credo che sia anche bello e interessante. È un po' la storia di Neve che ci ha raccontato Giorgia nello scorso podcast, no? Di un cane che vuole tornare nel suo territorio, vuole tornare dai suoi amici, ha una comunità che, ascoltate il podcast, non ve lo spoilero, però quando succede una particolare cosa lo va a cercare. E c'è un ritorno, sì. E quindi Neve, a cui comunque mandiamo un pensiero sempre, sì, molto forte, insomma. Speriamo che Giorgia ci ascolti, perché è veramente un pensiero molto sentito, sì, soprattutto in questo momento. Ma cani come questi, a volte raccontare delle storie e far vedere delle comunità così legate a dei cani smonta un po' l'idea che vivere sul territorio o avere un certo gradiente anche di autonomia sia solo pericoloso, perché lo è. Il mondo è un postaccio brutto, noi siamo donne. Io ogni volta che devo uscire di sera mi devo travestire, prendo i pullman di notte a una stazione di Pescara, mi devo travestire da uomo per non avere rischi. Così accade ai cani, così accade veramente a tantissimi, ai gatti e ad altri animali. Però dall'altro lato c'è anche la bellezza, e io avevo voglia di raccontarla, insomma. E noi siamo qua per ascoltarti. Ma perché, che cosa sappiamo di lui? Perché le sue gesta possono essere definite per molti versi eroiche? Allora, perché lui ha partecipato attivamente agli scontri. Ora, non aveva la prospettiva ideologica, molto probabilmente, perché poi chi lo sa, cioè, nel senso, noi dei cani sappiamo poco, però molto probabilmente non aveva la prospettiva di fare una lotta contro una politica ultraliberista che schiacciava i poveri gli studenti e tutti coloro che comunque non potevano per censo e ricchezza accedere a dei servizi. Ma ha visto la sua comunità, il suo piccolo mondo minacciato, e cosa ha fatto? L'ha difeso. L'ha difeso proprio scendendo in piazza, anche diciamo rischiando la sua pellaccia. Non sempre le cose sono andate dritte, perché comunque è stato anche investito da una camionetta della polizia, preso a manganellate, ha avuto problemi con i lacrimogeni. Ma in tutto ciò lui si è schierato e la comunità gli è stata accanto, perché ad esempio ha avuto sempre uno staff di veterinari dell'università, perché poi a frequentare l'università, cioè lui si era fatto anche gli agganci ingiusti, e che l'hanno curato e l'hanno supportato. E questo ci riporta ai villaggini di Palermo. Ci sono. Eccoci, ti ho perso, siamo arrivati ai villaggini di Palermo e poi sei caduta. Poi sono, niente, perché in questa settimana si stanno avverando tutti i miei shock tecnologici. Ragazzi, io non sono nativa digitale, ho 40 anni, quindi queste cose le affronto con un'ansia pazzesca, e si stanno avverando tutti i miei incubi, disconnessioni. Vabbè, cos'era successo? Vi sveglio in retroscena. La mia gatta nera è venuta e si è strusciata contro la presa della cuffia, e quindi mi sono disconnessa. Questo è il bello di vivere con animali, con i cioè, animali riot, perché poi i gatti in verità sono animali molto più ribelli dei cani. Assolutamente è venuta a metterci lo zampino. No, vabbè, parlavo dei villaggini di cui ci parlava Giorgia di Palermo, che riconoscono i malintenzionati. Quindi okay, sanno chi viene a trovare, chi è malintenzionati, o come i cani africans da villaggio dell'Africa, cioè che non sono di proprietà i cani di villaggio di alcune zone africane, ma difendono la comunità e vanno a caccia. Al negro che si è vista la propria comunità, che è quella degli studenti, minacciata, e ha deciso di prendere posizione. Poi se vi appassionate dell'argomento e vi fate un po' di ricerca, soprattutto su un motore di ricerca che vi permette di vedere le immagini, io così l'ho conosciuto, vedete che lui si diverte anche un sacco. Quindi diciamo che non ha una vita alla portata di tutti, cioè io dico sempre, tra tutti i cani che vivono con me, forse veramente solo Red, il cane nero, potrebbe avere questo grado di divertimento a situazioni così adrenaliniche. È anche un piacere di incontrare così tante persone diverse, perché poi lì ci sono dei cani che sono più sociali, più legati proprio al nucleo familiare stretto, e di fuori non gli interessa, anzi può essere un problema. E ci sono invece cani come il nostro Motapacos, che amava quindi conoscere nuova gente, intessere relazioni, andare all'università da fuori corso e fare tutte queste cose. Però è un altro tassello che ci decostruisce l'idea proprio di cane di proprietà. Per carità, io ho un cane che si chiama Mia, i miei cani sono cippati, e non, anche se la piccolina vorrebbe, non le faccio fare i giri da sola per il paese, perché sono terrorizzata dalle macchine, quindi non ha un invito a fare le cose a caso. Però i cani non sono nostri. E quindi diciamo che Matapacos ci mostra proprio un tipo di cane che ama fare un determinato tipo di vita e che appartiene a un frame culturale, parlavo proprio di cultura latina, che fino ai tempi dei nostri nonni era assolutamente normale. Poi abbiamo cominciato ad avere dei problemi con la rabbia e quindi sono nati canili così, come li conosciamo, pieni di cemento. È nato il benessere animale, per cui per fortuna li abbiamo voluti sopprimere sempre di meno i cani, però piano piano ci stiamo spostando verso il versante opposto, ossia di trovare inconcepibile di vivere con cani che possono avere banalmente una libertà di movimento. E quindi mi piaceva, oltre le sue gesta, legarle alla comunità, legare anche la comunità a un modo di vedere questo cane che si univa alle manifestazioni come facente parte dell'università, e quindi ne aveva pieno diritto, e anche la sua famiglia comunque di provenienza glielo permetteva, e penso che sia veramente una cosa speciale, insomma. Assolutamente. E quindi a questo riguardo noi ci chiediamo dove vive il nostro Mata Pagos e chi è la signora Maria Campos. Allora, Maria Campos sono io, perché quando ho letto la sua storia ho detto: oddio, è successo anche a lei. Tra l'altro, poco dopo è successo anche a una mia collega che stimo molto, si chiama Erika Florindi, solo che lui ha la versione rossa del nero Mata Pagos, che somiglia anche fisicamente Totti detto Ubaldo, sia a Mata Pagos sia al mio Red, perché la signora Maria passeggiava per un quartiere e ha visto questo cane che inseguiva delle macchine e gli ha detto: ma cosa stai facendo, ma lascia perdere. E lui ha interagito un po' con lei e se n'è andato. Si è ripetuto questo rituale, fa molto Volpe e Piccolo Principe, per più volte, e un giorno, cioè proprio cane squatter, ha sentito grattare alla porta e si è trovato, ecco io suono anche, scusate, e si è trovato il cane, quel cane che a Roma si darebbe si imboccava in casa, cioè proprio si è presentato, ha detto: mi sei simpatica, io vengo a vivere con te, che è la stessa cosa un po' che è successo col mio Red. Poi in mezzo ci sono stati vari problemi tra me e il vicino di casa, l'ASL, io ho dovuto un po' più ratificare la cosa, però Maria con tutta semplicità, e a me piace molto il fatto che se poi aveva di leggere le sue interviste, è una persona a cui è sembrata normalissima questa cosa. E detto: vabbè, lui è venuto, io l'ho accolto, cioè, del tipo, che dovevo fare? Ormai era amico, che lo lasciavo in strada. E certo. E lei ha cercato i primi tempi di gestirlo come una persona gestisce un cane di famiglia, ma lui verso le 10:30, perché poi essendo lo studente, quello fuori corso, non è che andava alle 8 all'università, lei alle 9 arrivava con molta calma. E certo, cioè, riposava, quello si era bello scelto la casa, si era scelto Maria che era simpatica, cioè le cure veterinarie, mangiava bene, beveva e poi andava a ciondolare, e lui grattava e voleva uscire. Lei questa cosa ha cercato un po' di combatterla e poi gli ha detto vai, e lui si faceva vari quartieri per tornare all'università. A me questa storia fa anche venire in mente un po', visto che siamo in estate, il turista che viene nel paese. Io adesso vi faccio il mio esempio, ma questa cosa la possiamo spalmare in tutto il centro-sud. Viene nel paesino bellissimo abruzzese, che può essere per esempio Campli, che è una bomboniera di paese, incontra il cane vagante che gli dà confidenza perché gli sei simpatico, perché vuole che c'è il porchettaro e gli smolli un po' di cose, o semplicemente perché si imbatte in te e pensa che il cane voglia tornare con lui, e invece no, cioè nel senso non è così automatico. Molto spesso, sempre per citare Franco Battiato, i cani hanno vite parallele, quindi potrebbero avere tranquillamente un nucleo di riferimento, potreste scoprire che sono scippati, solo si stanno andando a fare un giretto. Lo so, è vietato dalla legge, se volete scrivetevi, ne parliamo, ma sto proprio facendo l'antropologa, io vi leggo ciò che accade, e quindi se sono in salute, vedete che bene o male gli esercenti li conoscono, cioè, tutti i nostri cani sono anche belli grassi, cioè, nel senso non è che sono il cachettico che ti chiede l'acqua, lo vedete un pochino che è un cane che sta bene. Non è, cioè, potrebbe esserci una Maria Campos a casa che li aspetta, e loro semplicemente fare come i cani di cui vi dicevo, comunque del Cile, di Concepción, che hanno un'alta integrazione nel quartiere e sanno che i turisti solitamente sono quelle persone morbide che smollano le cose. E potrebbero volervi fregare un po' di coccole, magari, cioè non necessariamente sì, insomma cibo o altro. Ma lì, perché siamo diventati una società molto reattiva, no? Foto, sì. Facebook, drama, lo prendo, lo porto, Dio che faccio. Mentre invece, soprattutto il centro-sud, storie come quelle di Mata Pagos ci invitano a fare un po' come Maria, no? Io entro in relazione, ma osservo, vedo che succede, parlo con le persone del luogo, mi faccio un'idea, come ci diceva anche Giorgia, osservare, sì, osservare. Quindi mi piace questa figura di Maria, perché sfata un po' l'idea, anche quella del polo universitario che lo cura, del cane che sta bene solo senza l'essere umano, perché ce ne sono una fetta, ma ce ne sono altrettanti invece che hanno un'altra integrazione, ma anche quell'idea che se un cane si sta facendo un giretto da solo, è un cane maltrattato che ha bisogno di un divano, molto probabilmente è solo un cane che si sta facendo, che sta ciondolando in giro e ne sa più di noi spesso, soprattutto se il posto è suo. Quindi sì, porsi delle domande più che darsi delle risposte. Sì, oppure molto più semplicemente provare a chiedere informazioni a, a chi è del posto, insomma, che magari può darvi qualche informazione in più e tranquillizzarvi eventualmente, insomma, prima che ve lo caricate in macchina e ve lo portate a Roma e poi dopo non sapete come, come gestirlo e lo portate in canile. Questo purtroppo è una, diciamo così, è un giro molto molto difficile che cerchiamo in qualche modo di smontare, insomma, è un tema caldo. Visto che adesso dico una cosa che non c'entra niente, però questo è proprio il consiglio della ziona di paese a cui voi chiedete consiglio, perché io ormai mi sto tramutando nella zia di paese a cui voi turisti potete chiedere consiglio. Se volete aiutare un cane, ci sono i canili. Sì, cioè, sì. E molto probabilmente è lo stesso canile o comunque la persona del posto. Me potete, sapete, sempre scrivere, che io vi trovo qualche collega in zona che conosce i cani, che vi può dire: sì, guarda, madonna, quel cane c'ha bisogno di aiuto. O no, guarda, ce ne abbiamo uno che è chiuso tra quattro sballe, non mangia, non beve, è disperato, non ce la fa più, avrebbe veramente bisogno di una mano. E perciò per me le figure come Giorgio Amatesi sono preziose, perché, o come quelle di Maria Campos, perché sono un po' questi anelli di congiunzione tra il grosso delle persone e la vita del singolo, che è del cane, che dobbiamo sempre un po' rispettare. Insomma, non andreste neanche a rapire nonni, spero, nonni umani in giro. Quindi. Speriamo, insomma. Non lo so, potremmo arrivare anche a quello, ma forse no. Siamo un po' più come Maria e Giorgia, quindi a servizio e a disposizione di quello che, di cui realmente si ha bisogno. Assolutamente. Ma lo vediamo sempre questo Matapacos, sempre rappresentato con un fazzoletto al collo. Ci vuoi spiegare perché? Ah, questa è una storia molto carina, perché diciamo che è un po' l'emblema di quanto è polivalente il nostro nero. Allora, il fazzoletto ha iniziato a metterglielo Maria, per, insieme a una medaglietta, per indicare che lui appartenesse a un nucleo familiare, no? Uh-huh. Perché comunque, prima che diventasse un simbolo, era un cane che si intrufolava all'università, quindi lei gli metteva la bandana in cui c'era scritto un numero. Però questa bandana veniva sempre cambiata, ogni tanto gli ritornava con una bandana blu a casa. All'inizio lei si era un po' incaponita, e poi invece ha proprio, come questi cani, anche il mio, ti spingono a fare, ha cominciato a seguire la corrente, e quindi sì, lei cercava di rimettere sempre un po' la bandana rossa con il numero, ma poi, cioè, se veniva cambiata, si faceva anche una risata. Pian piano più Matapacos è entrato a far parte del gruppo universitario di rivolta, più avere una bandana rossa e lottare contro l'ultraliberismo è diventato iconico, anche perché essendo un gran numero di lacrimogeni ed essendo un livello di violenza che noi, nonostante siamo un po' di tempi di criminalizzazione del dissenso, anche noi, ma spero non arriveremo a quei livelli di violenza cilena, perché c'è una grande tradizione proprio di forte ostilità verso gli studenti e verso chi manifesta, ma proprio fisica, e hanno cominciato anche ad adottarlo gli studenti per ripararsi delle lacrimogeni, spesso scegliendo la rossa, quindi diciamo che lui ha lanciato proprio una tendenza e poi è diventata proprio il simbolo. Non è stato più cambiato questo colore, perché lui a livello proprio iconografico, di illustrazioni, perché poi c'è stato un gran fiorire di rappresentazione proprio artistica attorno a questo cane, è sempre rappresentato con i suoi occhi molto vivi, le orecchie a bottone e questo grande sorriso, perché poi è sempre molto galvanizzato dal caos e da stare lì e da essere al centro dell'azione, e da questa bandana rossa. E Maria l'ha mandato anche con la sua bandana rossa ad unirsi agli scontri, che a un certo punto, cioè, lei ha proprio entrata in forte sintonia con questo cane, ha capito quanto sia importante per lui. E ripeto, non è per tutti, cioè, nel senso che non è il mio, non è un invito, portiamo i cani alle manifestazioni, assolutamente no, nel senso ai no. Rave a tutto volume, cioè, nel senso, io poi sono anche molto rompina, cioè, ogni cane va inserito nel contesto giusto, però ogni tanto vanno anche fatti dei compromessi con delle cose che non ci piacciono, non capiamo o possono essere potenzialmente pericolose. Ricordiamoci, questa è una storia di un cane straordinario, quindi, diciamo, è un po' come se vi narro di un Ulisse, no? Cioè, poi nessuno di noi si fa l'Odissea, però il valore del viaggio di ritornare a Itaca come a livello simbolico resta. Quindi io per esempio ho avuto con il mio nero il discorso che lui ama buttarsi nei burroni per fare cosa, niente, lui ama l'adrenalina di buttarsi sotto. Io sono contenta di questa cosa, no, la capisco, meno che mai, perché io sono una persona che non ha mai capito neanche gli amici che andavano a sciare, cioè per me è proprio, cioè, non è che ho bisogno di battere adrenalina, ma fidandomi di lui, ecco, che è tornato, sapendo che comunque che è un cane che ha un certo fisico, una certa testa, una certa cosa, rispetto anche questo. E credo che questo discorso anche del rispetto che ci dà Maria, e anche questo cominciare a sorridere se gli cambiano la bandana, è bello. Questo discorso della bandana poi a me fa sempre pensare quanto adesso i colleghi cinofili non me ne vogliano, però noi, e io in primis, facciamo un gran lavoro su non toccare i cani, che è giustissimo, cioè, nel senso, perché purtroppo io vivo con una cagnolina di 6 kg che sembra un folletto, quindi c'è sempre qualcuno che la vuole toccare, lei a volte non vuole, soprattutto se è legata. Però poi tante altre volte, soprattutto se sono in libertà, ci sono dei cani che amano il contatto con gli sconosciuti. Mm-mm. Io ne vivo con uno. E quindi è sempre molto bello vedere che da un lato sì, dobbiamo molto lottare perché le persone capiscano che ci vuole il consenso da parte degli altri mammiferi, ma per essere toccati, cioè quelli che siano cani, gatti o altri esseri umani, però dall'altro lato quanto poi esistono classi di individui che sono socievoli e quindi amano tutta una serie di cose che forse non ci aspetteremo dai cani. Io lo racconto sempre, il mio cane si rimorchia le over 40, adesso compresa me. Io non sono una persona che ama molto chiacchierare con gli sconosciuti quando va in giro, tranne quando proprio faccio i viaggi lunghi, ma se no, cioè, molto spesso i miei spostamenti in città sono molto funzionali, vado a fare questa cosa, e quando sto con lui io conosco sempre un sacco di gente, soprattutto donne, perché lui li fissa, fa l'occhio al pesce lesso, ma quanto è bello, ma posso toccarlo, ma certo, ma posso baciarlo, adesso c'è una signora che si toglie la mascherina per farsi dare i baci. E per lui questo è importante. E ora, tutelo quella di 6 kg spesso che non ha voglia di fare le smancerie con gli estranei, ma a lui piace. E per cui i cani sono sempre un viaggio. Ogni volta che uno dice ok, l'ho capita, quando stai al guinzaglio non ti voglio far toccare agli sconosciuti, arriveranno sempre il Matapacos e il mio Red, che andranno a farsi cambiare le bandane o a digiunare con la gente. E mi piace a volte raccontarla questa storia perché ci aiuta sempre un po' a essere elastici e non un po' chiusi in delle categorie. Credo che sia sempre più importante non farci condizionare a volte da preconcetti di quello che è giusto in maniera un po' assoluta, ma esistono gli individui ed esistono i contesti ed esistono le relazioni in cui forse tu non hai voglia di fermarti, ma forse Maria avrebbe preferito avere il cane con la bandana rossa che non gli faceva venire gli infarti andando alla manifestazione, ma l'amore è anche questo, è anche rispetto, sì, insomma, dell'altro, assolutamente, insomma. E poi esiste anche la possibilità di aprire la mente e di accogliere magari ovviamente sempre con molto tatto, con molta sfruttando molto l'informazione che abbiamo comunque a disposizione, e quindi rispettare le scelte anche se a volte, come in questo caso magari la signora Maria, penso che sia stata abbastanza sì, spaventata, insomma, di non veder tornare il matapago, molto spesso, insomma, però è stata molto coraggiosa e noi la ringraziamo per questo, perché comunque ci ha regalato questo, questo grande mito. E, Marina, il negro è stato un cane che ha intessuto davvero molte relazioni e anche molto, insomma, si parla molto di questo tema. Ti va di parlarcene anche te? Allora, mentre sulle relazioni con gli universitari è più facile parlarne, perché diciamo che sono i suoi amici, Maria è la sua famiglia, ma lui ha avuto, oltre ad amici cani, anche diverse cagnette con cui ha fatto diverse cucciolate, e questo è un tema caldo e scottante. E soprattutto io nasco in canile, tra l'altro nasco a Roma in canile, al canile di Porta Portese. Non pensavo di diventare cinofila, io ho iniziato proprio a fare volontariato perché amavo i cani, e quindi faccio la parentesi, questo non è assolutamente un invito a fare cucciolate in maniera sconsiderata, però lui ha avuto diversi figli, e la cosa che colpisce molto è il fatto che ha avuto anche un ruolo nella vita di questi figli, che molto spesso erano adottati dagli stessi universitari, perché comunque era proprio diventato uno di loro, e quindi anche i figli hanno partecipato in parte dei figli alle manifestazioni, e ci sono degli scatti veramente iconici, sì, in cui delle immagini lui con i ragazzini, cioè sì, c'è lui con due figli a destra e due figli a sinistra, tutti con la faccia galvanizzata, un po' eccitata, un po' disforica, quindi anche un po' l'occhio da pazzo, che io conosco molto bene perché ce l'ha anche il mio cane, quell'occhio adrenalino quando è particolarmente preso da alcune situazioni, che sono sotto gli spruzzi degli idranti della polizia, e questo è sempre legame comunità, che poi i figli non è che devono essere per forza biologici, anzi qui ora purtroppo ne parlavamo con una collega poco tempo fa, dovremmo essere un terzo soprattutto in regione di cani, perché i numeri soprattutto nei canili dell'entroterra stanno sfiorando veramente il collasso, e adottate in canile, e cerchiamo di restringere un pochino le nascite. Però dall'altro lato è molto bello questa idea che lui abbia ha stretto legami anche con i suoi simili, e sia stato lui un padre, però per esempio altri cani potrebbero essere degli zii, per esempio il mio Rad spesso è zio di alcuni cani più giovani, perché dovremmo anche un po' ripensare alla comunità canina, cioè al fatto che comunque i cani lasciati liberi di scegliere per la maggior parte, perché poi ci sono dei nuovi studi che fanno vedere che non tutti amano fare dei microgruppi, cioè anche il cane solitario esiste, però nella media si diventa grandi, si stringono le relazioni e spesso si crescono i più giovani, o comunque si hanno amici, flirt, insomma mammiferi anche loro, quindi hanno una vita veramente emozionale, relazionale, complessa. Ma da Pacos se l'è vissuta fino alla fine, quindi lui ha avuto proprio figli biologici, cani con cui andava d'accordo, cani con cui litigava, diverse mogli, e è stato libertino anche in quello. Beh, i cani comunque non sono monogami, ed è bello proprio vedere queste foto, perché si crea proprio una sorta di quadro molto ricco, perché ci sono le foto con Maria nella sua casa particolarissima, ci sono le foto con gli studenti, da quelli pieni di piercing a quelli più impostati, e ci sono le foto con i figli, questi ritratti di famiglia in cui comunque lui si vede proprio che è una figura di riferimento. È oltre il grande eroe, mi piace questa idea proprio di cane che ha saputo tessere relazioni, cioè in tutta la sua vita, cioè lui purtroppo è morto nel 2017, è riuscito comunque a diventare un simbolo, ma anche essere ancora l'amico di tutti e il punto di riferimento, che una grande personalità così è bello che sia. E quanti ce ne sono nei canili così, ragazzi, che non possono farlo? Quindi sì, io posso confermare da volontaria in un rifugio ormai da tanti anni che sicuramente ho potuto, diciamo così, conoscere cani, conosco cani che secondo me sarebbero tranquillamente dei matapagos in prima fila, assolutamente, quindi non faccio fatica, insomma, a pensare, sapere di cosa stiamo privando il mondo, sì. Ma purtroppo così è. Già, esattamente. Allora, come abbiamo detto, quindi la sua vita ha avuto una grande risonanza, però anche la sua morte, ci confermi, ci sai dire un po' com'è andata? Allora, lui è morto nel 2017 e la cosa credo interessante sia che i livelli di tutela, cioè noi spesso viviamo in una fase in cui i cani sono un po' gli angeli bambini o gli eterni adolescenti, ma oh, perché ragazzi è dura, cioè, io sono un po' privilegiata vivendo in campagna in Abruzzo, per carità, ci sono anche cose dure da gestire, però c'è un grado di libertà di interazione dei cani in cui si creano anche delle microcomunità in cui io non ho il controllo di tutto, né devo scegliere ogni spicchio di vita dei miei cani, però più cresce l'urbanizzazione, più immaginate, cioè, spesso i cani sono cristallizzati in degli esseri che non possono scegliere, ma neanche misurarsi con gli altri, ma neanche comunque imparare un po' dalla vita e crescere. Matapacos è stato un adulto invece molto spettacolare, perché l'abbiamo visto con l'immaginazione in piazza, l'abbiamo visto tornare a casa, l'abbiamo visto convincere gli universitari che era uno di loro, si faceva regalare le bandane. Io credo sicuramente che di mezzo c'era anche il cibo, perché stava fuori comunque metà giornata e tornava la sera, andava anche in giro a fare altre cose. Ma più diventava anziano, più comunque crescevano dei problemi osteoarticolari, ma che tutti i nostri cani hanno, e lì sono intervenuto non un veterinario, ma un'equipe di veterinaria dell'università, che comunque ha portato avanti tutta una serie di cure. Sul finire della vita lui stava più a casa e andava a farsi solo dei giretti, ed è bello anche questo, oltre che la morte, certo, esiste, e quindi, cioè, nel senso, è anche una fine normale, però anche è bello quest'ultimo messaggio, che non è detto che se un cane è stato eroico nel fulgore dei suoi anni non possiamo aiutarlo laddove cominciano ad esserci dei problemi fisici, certo, perché comunque quello con i cani è sempre un'alleanza. Poi storia diversa per ogni tipologia di cane, ma visto che qui stiamo parlando di cane da villaggio, nell'ultimo periodo della sua vita è stato molto supportato, e la sua morte ha proprio generato un cordoglio non solo a Santiago ma nazionale, e addirittura transnazionale, perché hanno messo una bandana rossa anche ad Achiko in Giappone, che insomma i giapponesi, sì, non sono molto famosi per essere, sono un po' come i francesi, non è che sono esterofili in una maniera, però ha colpito proprio questo cioè combattente dedito alla sua comunità, e quindi l'hanno voluto onorare così. Oltre a questo ha avuto copertine di giornali, murales, statue in cartapesta, sì, statue vere, quindi diciamo che non è passato inosservato, sono le statue che ci piacciono, cioè, insomma, se ne tiriamo due tre giù di figura un po' meno fulgide e ci mettiamo io saprei già dove andare a smontare le statue e metterci quella del matapacco. Io già ne stavo dicendo una, però ho detto vabbè, non alimentiamo la polemica perché ma guarda 4 giugno poi dopo magari me lo dici fuori dalla registrazione, perché chissà che magari abbiamo pensato alla stessa statua, insomma. Però ci sarebbero molte statue da buttare giù, quindi matapachi ovunque. Sì, sono d'accordo anch'io. Allora, il negro matapagos è tornato ad essere famoso a cavallo tra il 2019 e il 2020. Perché? Sì. Questa è un'altra cosa molto particolare, perché abbiamo iniziato con l'innesco della protesta in Cile, è stato l'aumento dei costi dei biglietti dei trasporti pubblici, e nel 2019 a New York c'è stato un forte aumento dei trasporti pubblici. Ora, il trasporto pubblico è soprattutto il mezzo della middle class, dalla middle class in giù, cioè, diciamo che il ricco newyorkese, chiunque abbia la mia età ha visto Sex and the City, Carrie si muoveva in taxi, o comunque se vedete il ricco si muove in altra maniera. E quindi visto che c'è stata una forte protesta a New York, perché non è che possono utilizzare le macchine come noi, la situazione è tutta diversa, quindi è molto importante il trasporto pubblico proprio per andare a lavorare, e lui è diventato simbolo delle proteste a New York contro l'aumento del trasporto pubblico. Ed è particolarissimo, perché diciamo che la cultura statunitense spesso non ha un grande feeling con le figure rivoluzionarie, mettiamola così, e invece lui è riuscito anche a rompere questa barriera. Oltre questa, è diventato, cioè, che è una roba un po' più politica, finiamo invece con un qualcosa di più relativo proprio ai cani, forse quello che ci occupiamo io e la mia intervistatrice, è diventato anche il simbolo di adotta un cane nero. Ora, questo il fenomeno dei black dogs, per fortuna numericamente sta un po' rientrando, ma ancora c'è. Però ancora è molto, molto sentito. Ma voi, io ho una carissima amica che mi disse, nonostante anni e anni di frequentazione di rottura da parte mia, mi disse: quando potrò andrò in canile e mi adotterò un cane senza zampe, senza una zampa. E io ho detto: ma perché? Perché non se li adotta nessuno? Gli ho detto: guarda, tu non ci crederai, ma statisticamente il cane nero taglia media maschio adulto ha un indice di adottabilità bassissimo, che non ci si crede, perché no. Io vivo con un cane nero di 18 kg maschio e vi assicuro che, nonostante il carattere effervescente, perché poi lì se vi serve una mano ci siamo noi, e esistono veramente tantissime personalità, tipologie, cioè, insomma, non è che si deve vivere con quello che si butta nel burrone che ti va alla manifestazione necessariamente. Non tutti i cani neri di taglia media sono così, però sono poco adottati, ed è un peccato, perché poi io vivo con tutte le taglie, perché ho 6, 18, 24 e penso che ormai sarei arrivato a 35 l'altro. Vi devo dire che, per esempio, tutti mi dicono: ah vabbè, io adotterei quella di 6 kg, oltre che lei, quando era giovane, essendo un terrier da tana, era un'esperienza veramente mistica, cioè lì li devi amare e basta. All'altro lato, io porto avanti un'iniziativa insieme ai Poteri Piccoli, li amo, mi faccio i laboratori, però discutiamo sempre che ci sono tutta una serie di anche asperità quando vivi con un cane di taglia piccola. Sì. Una per tutte, la predazione. Io per fortuna vivo con una piccola divinità che se la sa cavare molto bene, ma 2-3 volte nella mia vita due levrieri e due pastori tedeschi, due situazioni diverse, 2-2, ancora c'ho i brividi. Mentre invece molto spesso il cane nero adulto, poi maschio e femmina è abbastanza indifferente, cioè la taglia media coniuga a volte un po' più la praticità del cane di taglia piccola. È brutto metterla così, però a me una volta mi è successo che chissà perché il cane che si butta nei burroni si è scorriato un po' in maniera brutta un po' il passerello, l'ho caricato in spalla. Già con quella di 24 farei fatica, 35 chiamerei qualcuno a farmi aiutare, perché potrebbe, comincerebbe a diventare un problema. Certo. Ma poi c'è tutta una serie di benefit che il cane nero di taglia media reca con sé, che può essere, è adulto, vi possiamo dire chi è, possiamo raccontarvi un po' della sua vita, che carattere ha, chi gli piace, cosa non gli piace, è come conoscere un amico. E il Matapacos è diventato simbolo delle manifestazioni per adottare un cane nero, e quindi con una grandissima effigie di cartapesta è andato anche in giro nella città un po' per dimostrare quanto figo può essere un cane, che va a finire che se voi passavate davanti a un canile, non, cioè davanti alla sua gabbia in canile, col fatto che non stava facendo il dramma, non era fisicamente particolare, non aveva un appeal, non era tanto grande quanto piccolo, un essere umano ci piacciono gli estremi, ma come dice Coppinger, il vero cane teoricamente peserà 20 kg, ma questa è un'altra storia, e porta tutta una serie di addetti ai lavori a fare delle opere di sensibilizzazione. Io sempre questa cosa l'ho scoperta millenni fa tramite Barbara Gallicchio, e in Sud America sono stati furbi, perché chi meglio del nostro nero a essere emblema di un atto di forte intelligenza, come adottare un cane nero di taglia media. Poi fra l'altro, sempre la cornice latina, anche loro hanno il grosso problema. Al Jazeera ha fatto varie inchieste, soprattutto in Messico, però diciamo che la cultura è una cosa che è un po' in tutto il mondo, c'è cioè questa emergenza di acquistare cani di razza super di pedigree senza conoscerli. E quindi si è un po' saldato anche questo fatto che poi le persone, c'erano dei boom economici, adottavano questi cani, poi li abbandonavano, e questi cani non erano capaci di sopravvivere nei territori. Certo. I due cani che si adottavano più erano Yorkshire e pastore tedesco, perché poi ogni zona del mondo ha i suoi, per cui serviva un simbolo perché le persone cominciassero anche a rinteressarsi dei tipi locali, dei cani locali, o comunque di fare proprio un discorso di aggancio e sensibilizzazione culturale. Quindi diciamo, lui non solo ha avuto una vita straordinaria, ma continua ad averla, perché viene sempre un po' messo in mezzo quando si tratta di lottare per un concetto di miglioramento sociale. Finora ho visto che hanno anche tentato di vendere le magliettine, spero che questa cosa non vada avanti, perché cioè, o spero che le devolvano il ricavato in beneficenza perlomeno, ma insomma cioè, finora, fino adesso, fino al 2020 la sua figura comunque è sempre stata legata a cause importanti. E speriamo che continui così, insomma, speriamo che in qualche modo la figura del Matapaco sia anche tutelata da chi magari se ne vuole occupare anche adesso che non c'è più, insomma, non dico che debba diventare un riferimento per tutti, però spero insomma che in qualche modo non venga strumentalizzato, cosa che poi avviene molto spesso, insomma, purtroppo sì, in molte realtà. Allora Marina, io direi che per me è tutto, non so se vuoi aggiungere qualcosa, sei liberissima. No, ho parlato abbastanza anche questa volta. No, sei stata bravissima, siamo rimasti dentro l'ora e siamo stati bravissimi. Tra l'altro, ovviamente tu tornerai a Pocrasi, perché abbiamo diversi temi da affrontare insieme, quindi ti sfrutteremo ancora. Volentieri. Perfetto. Allora, io ti ringrazio e quindi è un arrivederci. Ok. Alla prossima. E buon proseguimento. Grazie.